Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, buon mercoledì. Mercoledì chiaramente, targato Rock Wave. Io sono molto contento, sono molto soddisfatto. Abbiamo fatto fatica, ma finalmente sono arrivati. Buonasera agli Utah. Buonasera. Avete fatto un buon viaggio? Sì. Andato benissimo. Andato benissimo. Benissimo, benissimo. Ok, gli Utah. Intanto io ho sentito il disco, noi della redazione Rock siamo stati soddisfattissimi del disco. È un disco molto molto interessante. Da dove nasce il progetto Utah? Perché è stato questo progetto? L'idea dove è partita? Barbara. L'idea... Intanto presentiamo la band, Barbara. Sì, ok. Io presenterei prima per Luigi Aielli, che suona, suona le chitarre. Dario Mazzucco alla batteria. Bene. Ettore Formicone al contrabbasso. Che bello il contrabbasso, è bellissimo, grazie, visivamente grazie. È bellissimo. Anche Ettore Formicone è bellissimo. Anche Ettore Formicone è bellissimo. E Pietro Canali al piano Wurlitzer. Perfetto. E okay. Io sono Barbara. Benissimo. Cantante. Ok, allora, Barbara, il progetto è nato, questi sono i componenti della band, ma l'idea com'è partita? È partita da una suonatina fra me e Pierluigi, che poi da una suonatina a un'altra abbiamo iniziato a scrivere brani e siamo stati un duo per molto tempo. E... genere musica, cioè acustica o elettrico? Cioè l'ictare no, elettrica? No, è acustica. Un duo acustico. Un duo acustico per molto tempo, sì. E, il disco in realtà, diciamo che i brani che si trovano sul disco sono... molte di quelle sono le prime che abbiamo scritto insieme, proprio Pierluigi da soli. E poi c'è stato a un certo punto una ricerca per... volevamo approfondire le nostre possibilità, diciamo, volevamo sviluppare anche le possibilità dinamiche e era importante trovare altri musicisti e poi... E poi è diventato quello che è adesso. Sì. Cioè, da un duo acustico è diventato un five piece. Come i brani come partivano? Cioè lui li componeva la chitarra, tu li facevi il testo, la musica era assieme o tu il testo e lui la musica? E che dici per Beh, no, la musica è nata sempre da una compartecipazione di tutti e due. I testi sono esclusivamente suoi. Ah. Quindi se apprezzate i testi sappiate che sono suoi, sono molto validi. Ecco. Benissimo, benissimo. Esattamente. Quindi l'idea era di allargare l'orizzonte da un duo a portare gli altri componenti del band. Quindi la batteria, il contrabbasso fondamentale e la tastiera. Sì, esatto. E quindi la musica, abbiamo scritto sulla recensione che abbiamo per la presentazione, una musica che da molte strade, parte dal folk, Amalia, avvolge secondo me. Io la vedo così, la sento così. Com'è questa tendenza, questo orientamento leggermente legato al folk? Che fosse tutto di origine anglosassone, fosse per quello? Sì, penso che anche Pierluigi probabilmente nasce dalla musica che abbiamo ascoltato tutti. Io personalmente ho... Che background musicale avevi te praticamente? Cosa hai sentito? Cosa hai ascoltato? Sicuramente molto, molto folk, Joni Mitchell... L'ho ascoltato Joni Mitchell tantissimo, ma... La buona canadese, Joni Mitchell, sì, certo. Non Neil Young. No, più Joni Mitchell che Neil Young. Okay. Anche se lei ha passato il confine da un sacco di tempo, se è andata negli Stati Uniti. Sì. Però è sempre Joni Mitchell, è canadese. Anche Leonard Cohen è canadese. Sì. Canadesissimo. Canadesissimo. Sì. Ok, allora, siamo partiti da là. Sì, questi sono sicuramente i nostri eroi, poi... cioè, i nostri eroi in quanto canadesi, ma... miei in qualche modo sicuramente. Certamente. Però è anche riduttivo parlare un'ispirazione particolare certo, no. Un'altra. Tu hai un input, gli altri hanno altri input praticamente. Sì, sì, sì, sì. Cioè, penso che abbiamo tutti background musicali molto, molto vari e anche abbiamo gusti musicali penso molto, molto ampi. Che hanno trovato una coesione nell'album praticamente. Abbiamo detto che possiamo chiamarlo un greatest hits, cioè certe cose vecchie che voi avete ripreso, che avete sviluppato, avete allargato. Non in senso riduttivo, Sì, assolutamente. No, secondo me non si può chiamare greatest hits perché era l'album d'esordio, quindi Cioè, questi sono i sono questi. Beh, sì, no, intendo, i retisti nel senso sono cose che avevate già pronte nel cassetto, questo voglio dire. E avete estrapolato alcuni, le migliori, insomma. Alcuni pezzi sono più, se vogliamo, antichi. Ecco, sì, quello voglio intendere quello. Solo quello, ma giusto di un paio di annetti. Mm. Però poi sono state prese e rivoltate, ecco, completamente. Prese e rivoltate. La batteria, il contrabbasso e le tastiere, come le hanno rivoltate? Ecco. È qui che è arrivato l'apporto che per quel momento sembrava esterno degli altri tre che poi adesso fanno parte del progetto. Però grazie a queste nuove e diverse influenze è nato qualcosa di particolare, di diverso, di ci piace pensare che possa piacere, ecco, qualcosa di che ci va di proporre alla gente. Certo, allora, visto che a me è piaciuto molto, apriamo la finestra e sentiamo il primo pezzo che avete scelto in scaletta. Qual è il primo pezzo che avete scelto, Barbara? Si chiama All the Places. Lo sentiamo prima e poi ne parliamo, ok? D'accordo. Perfetto. Sì. Rock Wave. L'onda del rock. Places I could go, all the faces I'd like to know. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, adesso spieghiamo questo pezzo. Tanto il titolo, ripetiamo il titolo. Il titolo è All the Places. Io ho scritto catturati dal movimentismo divertito. Sì, mi è piaciuta questa frase. Io l'ho sentito così. Adesso questo movimentismo divertito me lo spiego, me lo spiegate praticamente. Beh, secondo me è azzeccato perché anche dalle parole si, diciamo, la sensazione che dovrebbe arrivare è l'entusiasmo, l'eccitazione che c'è prima di un viaggio. E quindi sì, e anche il viaggio, diciamo, è, il movimentismo è giusto, è l'idea corretta. E anche musicalmente è movimentato, c'è questo gioco delle tastiere. Vieni, visto che giochi sulle tastiere, adesso ho un microfono a te, perché dobbiamo parlare tutti, non solo la banda, giustamente. Vai. E il disco, perché hai creato questo pezzo movimentato, accattivante, che ci, che si fa, che dà movimento praticamente, secondo me. Beh sì, il viaggio è movimento, siamo d'accordo. Assolutamente, l'arrangiamento iniziale del pezzo era andato verso quella direzione, appunto, di creare una cosa molto molto, molto ritmica, un gioco ritmico. E poi in studio abbiamo cercato di, come dire, dare vita a questo, no, a questa idea sonora, quindi con la batteria molto, molto serrata, molto precisa, e con diversi incastri ritmici. E un'idea di seguire questo, diciamo, movimento iniziato dalla batteria era appunto tutti questi rimbalzi di delay dati dalla tastiera, che creano un po' di una sorta di soffice, no? Ecco, tessitura, per le persone però, che ritmica. Non capiscono gli imbati di delay, adesso li puoi spiegare un po' meglio? Oddio, per i non musicisti è semplicemente un effetto che fanno sì che rimbalzano le note che tu suoni una volta, e con infinite possibilità di incastri, come dire, ampliano l'utilizzo singolo dello strumento, della nota. Quindi questo unito alla batteria ha dato questo flusso di movimento che... Il pezzo originariamente come era costruito? Era una chitarra e voce e basta? No. Non me lo ricordo. Non me lo ricordi. Lo ricordi te? Per questo, questa era solo una linea melodica. È una linea melodica. Era qualcosa di estremamente semplice. Forse rasentava anche la banalità. Mm. Però, no, non era banale, però. Rasentava, tu hai detto. Non era banale. Sì, esatto. Ecco. Rasentava. Poi con un po' di estro anche di Dario Mazzucco, il batterista. Citare il batterista, perché ha dato un elemento importante a questo pezzo: il movimentismo. Ripetiamo, anche la batteria dà il movimentismo oltre le tastiere. Dario, cosa dici? Ah, sicuramente, siamo entrati nel mio campo diretto. Ecco, perfetto. Beh, di movimento si parlava, di movimento parla il testo, di questa idea di movimento parlava tutta la canzone, quindi mi sono sentito chiamato in causa sicuramente. Ma ti hanno dato la possibilità, hai deciso te di fare un determinato schema, oppure lo schema era... Mediamente questo vale un po' per tutti. Se uno di noi ha un'idea, ovviamente il proprio strumento lo conosce meglio degli altri, quindi dà la propria idea di base e poi si è soggetti a qualunque tipo di critica costruttiva e distruttiva, perché non è detto che l'idea sia... Siete tutti in libertà o vi azzannate fra di voi? No. Siamo liberi di azzannarci. Siete liberi di azzannarvi, ecco. Perché di solito, quando dicevano altre band che sono venute qua, quando si costruisce un pezzo ci sono sempre delle discussioni costruttive, chi vuole in una certa maniera, con un angolo diverso, con una colorazione diversa, non c'è, c'è una lotta furibonda nel senso positivo, e poi c'è una pace, capite, dopo la tempesta. Cioè, la lotta va anche motivata, perché se magari il pezzo lo immaginavo in un certo modo e sta andando da un'altra parte e non sono convinto, devo dirlo assolutamente. Questo è il patto di fondo che ci ha unito dall'inizio. Ecco. Certo. I nostri temi iniziali sono stati messi sul tavolo. E così. È una discussione a cinque voci, fondamentalmente. Beh, così come si parla in questo modo. Questo bisogna avere il rispetto di chi sta finendo una frase, dire la propria opinione, sentire cosa dice un altro e cambiare la propria nel caso in cui si sia convinti da quello che dice l'altro. Certo. Infatti, mi piace ricordare che fu dopo una piccola tournée nel sud Italia che scegliemmo di passare da duo a gruppo. Che può sembrare una sciocchezza, ma invece rappresentava proprio un progetto nuovo che nasce dove tutti devono mettere le mani. Certo, certo. È collegato una cosa importante questo pezzo, dicevi, video, no? Ah, dicevamo dal punto di vista proprio del video. Sì, certo. Sì. Beh, abbiamo avuto una gran fortuna, adesso magari introduco, poi per i dettagli tecnici passiamo la parola a Pierluigi, che certo. Ha anche un rapporto profondo di amicizia con l'autore. E abbiamo avuto la fortuna di poter andare a girare un video che tra l'altro è visibile online sia sul nostro sito che insomma utahmusic.com. Perfetto. E abbiamo avuto appunto la possibilità quest'inverno di andare a girare per un paio di giorni questo video in pellicola, quindi in analogico, come si chiama? Una parola che bello. Ci piace molto. E in Svezia, una piccola località sopra Stoccolma. Sono stati due giorni incredibili, con un freddo incredibile. Perfetto. Proprio per questo ci ha ghiacciato le emozioni dentro, è stato stupendo. Quindi il movimento era necessario, visto che era tanto freddo. Il movimento era necessario, perché sennò era la fine per tutti. Bello, bello, interessante. Molto, molto bello, insomma. Quindi sì, avete collegato, è stato un discorso di collegamento tra questo e il video, praticamente. Certo, certo. Il video è una cosa che vi devo chiedere: è ancora valido fare il video adesso? È ancora un mezzo per farvi conoscere oppure è sorpassato? Secondo me forse lo è ancora di più che in passato. Con la tecnologia. Visto i mezzi di distribuzione, di facilità, di visione del video, secondo me è veramente fondamentale. Certo, certo. Poi sinceramente anche la curiosità di poter vedere o le facce o anche solo le immagini che sono state scelte per un certo tipo di musica da parte della band e quindi dell'ascoltatore dall'altra parte, è bellissimo secondo me. Può anche essere deludente, uno si fa magari un'immagine di chi sta facendo quella musica e ci vede e dice ma no, questi non c'entrano nulla con quello che mi ero immaginato, però comunque è veritiero. Per me è importantissimo, credo. La tecnologia è importante, però ci vuole anche l'anima più che la tecnologia. Soprattutto l'anima. Dimmi. No, perché tra l'altro il video è girato in 35 mm e anche per quanto riguarda All the Places è il pezzo è come cercare di riprodurre un qualcosa di digitale in maniera analogica. Sì, ho capito. Tutto il disco è basato con l'idea di non avere nessun aiuto digitale, quindi tutto registrato in bobina e con strumenti super vintage, il Wurlitz. Ecco, bello. Può spiegare meglio la cantante. La Barbara. Ha detto una cosa bella, i vintage, cioè il ritorno al passato. Io ricordo che c'era un grande gruppo che conoscete sicuramente, i Pearl Jam, che avevano quello da ritornare al passato, il vintage, che è una cosa meravigliosa. Ancora gli amplificatori a valvola, quelli belli, tosti, quel suono era il suono bello, un suono ancora umano. La tecnologia non deve uccidere il suono, deve dare una mano, secondo me, non ucciderlo. Bellissimo. Questa è la base di tutto, dimmi. Cioè dimmi. No, volevo dire che fondamentalmente il suono è più bello del video. È più bello. Non è bello. Cioè, la differenza è che se uno ha un'idea sonora in testa, che va in quella direzione di un certo tipo di suono, derivante anche da ascolti magari che hanno un'età, no? Sono invecchiati bene, diciamo, il doverlo fare con questo tipo di approccio, quindi vintage, diciamo, è l'unica possibilità per averlo vero, reale, senza dover fingere di, no? Quindi avere l'opportunità incredibile per noi, no? di poter seguire questa strada in, certo, in quelle persone, in quel tipo di studio, poi citiamo lo studio a Montreal, eccetera eccetera eccetera. Apriamo la finestra un'altra volta, presentiamo il secondo pezzo. Una cosa voglio fare prima, ringraziare il nostro staff, Michele Tosone che è in regia, e Roberto Baldi che ha curato le telecamere, come Agostino Spolaura che ha curato le telecamere, il nostro organizzatore, direttore artistico Alberto Prisco, e salutiamo tre ragazze che ci seguono sempre, che sono la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che sono delle ascoltatore accanite. Quindi ciao. Anche a tutti gli altri, anche a tutti gli altri, chiaramente. Citiamo anche le SMS 346 23 20 033. Si possono collegare e quindi interagire con voi, chiaramente. Il secondo pezzo che abbiamo scelto, Barbara, qual è? Da disco? Il secondo pezzo è l'ultimo pezzo del disco, che si chiama Monday's Haze. Perfetto, lo sentiamo e poi ne discutiamo un poco, ok? D'accordo. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Who will show me out? I've been down, down and up these streets I still can't name. Like a player in this game that won't stop running through the hoops before the rules have been explained. I've been down, down, down, down and up these streets I still can't name. Like a player in this game that won't stop running through the hoops before the rules have been explained. So small, I could disappear somewhere. Can't keep track. Running through the hoops. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Spot. Longarone Fiere informa. Dal 23 ottobre al 1 novembre c'è Arredamont, l'appuntamento con l'arredare in montagna. A Longarone dal 23 ottobre al 1 novembre. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Adesso dobbiamo spiegare. Intanto il titolo del disco, Barbara, che non abbiamo ancora detto, però. Il titolo del disco è Running Through Hoops. Perfetto, bella pronuncia canadese. Bella pronuncia. Verace, genuina. Canadese verace. E adesso spieghiamo questo pezzo di 11 minuti. C'è una piccola particolarità, c'è una ghost track praticamente su questo pezzo. Sì. La ghost track era sì una sorpresa anche per noi, è una cosa, un piccolo regalo che ci siamo fatti in studio. E ci è piaciuto come finale del disco, diciamo. 11 minuti o quasi di musica. È difficile gestire 11 minuti nell'ultimo pezzo, o no? È coraggioso gestire 11 minuti nell'ultimo pezzo di un disco di esordio della band indie, o no? Cosa dite? Che dite voi? Che dite voi? Che dite voi? Sinceramente, è che io penso che non è molto importante se dura 11 minuti o no, l'importante è quello che si dice. Bisogna dire. Certo. Quello che si cerca di fare comunque è far vedere la musica, quindi ci sono bisogno 4 minuti, ce ne sono bisogno 11, è indifferente, specialmente in questo pezzo che è complesso, abbastanza profondo e complesso, con delle dinamiche difficili, anche a livello letterario è un tema che lascia molto all'immaginazione, anche alla sensibilità degli ascoltatori, per esempio come Monday Says, appunto l'inizio della chitarra che ricorda un po' una nebbia, e appunto che per Luigi Aielli potrebbe spiegare bene in questo senso. Sono dei piccoli quadri che poi cambiano, quindi l'esigenza di tagliarlo e farlo diventare magari due o tre pezzi diversi non stava in piedi. Però, come dicevi tu, è anche un rischio. Cioè, sì, ma è un rischio calcolato, sì, chiaramente, sì. È un rischio calcolato. Possiamo dire che una volta c'era il progressive che si usava 5, 6, 10, 12, 15 minuti. Sì. Adesso il progressive non esiste più, ma può esistere in un'altra maniera, in un altro modo, in un'altra etichetta. Insomma, l'etichetta è difficile, è brutto citare l'etichetta. È un vostro pezzo e basta, avete deciso così e secondo me ci sta. Nell'ambito, grazie, ci fa dei pezzi, chiaramente. No, sì, anche dimmi. Perché secondo me la lunghezza standard, no, diciamo, non è Sanremo, tra virgolette, no, non lo so, 3 minuti e 40 al massimo. Però alla fine, se uno guarda, l'avete scritto per Sanremo. Se uno guarda la lunghezza standard dei pezzi, il range più o meno quello tra i 3 minuti e mezzo, sì, e i 5, cioè, come se diciamo, oggettivamente la forma canzone si andasse a esaurire più o meno in quella durata. Ciò non significa che se il pezzo diciamo esce dalla formula della canzone, diciamo, no? Compositivamente dico, certo. Uno può arrivare a dire tutt'altro. Ad esempio Monday Says, pezzo che abbiamo sentito, è fondamentalmente spaccato in due, sì, perché ciò che viene dopo aveva senso, prosegue il discorso iniziato da ciò che finisce, no? Intorno appunto ai 4-5 minuti, e poi tutto ciò che viene dopo è semplicemente, ecco, un'altra, si è aperta un'altra finestra che chiudeva la precedente. Però non è una forma canzone classica, potremmo, certo, dire, per quello va oltre. Posso identificarla come jam session, tra virgolette, questo pezzo qua? Non nato come jam session. No. Come? Assolutamente no. No. Esatto. Dai, vai. No, infatti, sì, come diceva Ettore, in realtà non è affatto improvvisativa la parte finale, ma è un crescendo molto, diciamo, molto, molto lento, molto progressivo, sì, però fondamentalmente studiato. Volutamente. Volutamente studiato, okay, sulle aggiunte. Infatti è più o meno, no? Procede per aggiunte successive, certo, di temi, di strumenti, di strati successivi, fino ad arrivare al suo culmine, alla fine, che poi è la fine del disco. Certo. Però è esattamente, come dire, è pensato così praticamente. Una sovrapposizione di piani. Questo disco di Jeff. questo disco di Cem c'è ben, ben poco, tutti i pezzi sono elaborati quasi a tavolino, se vogliamo. Quindi. Questo in particolar modo era pensato... In pre-produzione, ecco. Sì, esatto, era pensato proprio per archi veri, poi siamo stati molto... Li citiamo allora? Sì, siamo stati molto onorati dalla partecipazione di due ragazze di Montreal, Marie-Emmanuelle Boileau al violoncello e Maud La France al violino, e anche di Terry Amar al contrabbasso di non so quale secolo, era uno strumento bellissimo che lui era, è un collaboratore di Silver Mount Zion, una band di Montreal, indie affermata. Hai citato Montreal, avete inciso a Montreal in degli studi particolari, praticamente famosi, adesso sono diventati, sì, famosi, perché? Adesso lo puoi spiegare. Lo studio si chiama Hotel to Tango e io in particolar modo inizialmente tenevo, diciamo, ero la prima a tenerci perché lo conoscevo, perché abitando a Montreal si sentiva parlare moltissimo di questo studio, anche da piccola, diciamo, andavamo a sentire concerti in questi locali vicino alle ferrovie, diciamo, e piano piano penso di aver contagiato tutti con l'ossessione, questo sogno di andare a registrare là, che poi si è avverato. Il grande Howard Bilerman, l'ex batterista di Arcade Fire, come dire. Sì. Un lavoro bellissimo. E qualcuno ha citato anche, sì, beh, Howard Bilerman è stato anche collaboratore del grande Big Chestnut, che purtroppo se n'è andato da un po' di tempo l'anno scorso. È un grandissimo musicista, un musicista atipico, per quello era grande, perché era atipico. Quando faceva le cose di Big Chestnut stavi sempre così, perché faceva le cose diverse. Disco dopo disco non era mai uguale, cosa positiva. Per chiudere la parentesi con Big Chestnut, ritorniamo al discorso. Abbiamo parlato, visto che ci siamo, poi io voglio fare una domanda a tuo nome, mi ricordo mai? Ettore. A Ettore, che viene Ettore Formicone, che in Spagna, della scena spagnola. Adesso parliamo un momento della scena, poi parleremo anche della scena italiana, della scena e quindi canadese. Cosa si respira, cosa si sente, oltre gli Arcade Fire e tutti gli altri? Beh, Montreal è una città dove si suona molto e, diciamo, crescendo nell'adolescenza a Montreal, una cosa che si fa e che io ho sempre fatto con i miei amici era andare a sentire le band suonare, non era tanto le discoteche, almeno nel mio caso, e quindi diciamo sono cresciuta con questa passione e con molte persone che suonavano e che tutti continuano a suonare fino ad oggi. E penso che sia un luogo che rende questo possibile e relativamente facile, diciamo, anche rispetto ad altre realtà che adesso ho conosciuto. In Italia, soprattutto. Sì, sì. Ma c'è musica ovunque, c'è veramente... Ti suona sempre. Sì. Ettore, invece, in Spagna, sì, com'è il discorso? No, in Spagna anche si suona tantissimo. C'è un risveglio, tra l'altro, per l'indie molto evidente, anche aiutato da alcune radio, tra cui Radio 3, che è una radio nazionale, anche i canali televisivi, i canali della televisione nazionale spagnola passano indie spesso, c'è moltissima musica, è una scena molto buona, tra l'altro di grande qualità, anche se comunque la Spagna realmente a livello europeo e mondiale ancora non ha fatto il salto che probabilmente adesso già merita, però chiaramente dopo 40 anni di franchismo riuscire poco a poco costa un po', certo, infatti, certo. I gruppi altissimi che ci sono lì in Italia non sono conosciuti, Francisco Nixon per esempio, non so, noi conosciamo la Flaca in Italia. La Flaca conosciamo. Beh, comunque lì conoscono Eros Ramazzotti. Esatto. Okay. Siamo pari. Non c'ho niente contro la Flaca, assolutamente. Assolutamente. Però, anzi, se la Flaca... anche... Comunque, niente, così. Ho capito, quindi. Cioè. Allora, facciamo così. Adesso suoniamo e poi continuiamo, okay, il discorso sulle emergenze italiane di gruppi indie. Cosa suoniamo adesso? Abbiamo sentito l'ultimo brano sul disco e adesso iniziamo col primo. Benissimo, benissimo. Marigold si, okay, chiama. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. find your place in the sun. And don't you come undone, you like the marigold. Although the streets you walk are not paved in gold, you walk, you Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, diretta rockway.altervista.org, ci potete vedere e sentire assolutamente in diretta, 22, 44 e 52 secondi. Questo pezzo è un po' fluttuava secondo me. Era avvolgente, avvolgeva. Come mai? Io l'ho sentito così. C'è un motivo e doveva essere così. Beh, chiaramente questa è una versione live acustico, ma è un acustico che non si allontana molto molto da quello che era nel disco. Io penso sempre a Ettore Formicone quando sento questo. Ettore, che c'hai questo bello contrabbasso, questo bel suono del contrabbasso, che non sono, qualcuno ha scritto che il contrabbasso o certe sonorità, la 4AD ricorda molto la 4AD. Un'etichetta meravigliosa, quei suoni, non dico oscuri, ma tenebrosi, è in senso positivo del termine, romantici. Sì, romantici. Romantici, no, tenebrosi, ho visto che hai fatto una brutta fase. Nel senso ottocentesco, sì, vero? Romantici. Foscoliano. Romantici, perché il contrabbasso ha una grande funzione, nella musica rock, nella musica indie, stava cadendo, Infatti, tutto in diretta, si vedeva che stava cadendo. Vai Ettore, spiegami un momento questa fluttuazione, questo avvolgere, questo riprendere. Il pezzo era nato da Barbara e Pierluigi Aielli. E c'era l'esigenza di farlo volare veramente. Allora, dopo vari tentativi di ritmica, ci venne in mente di utilizzare questa linea un po' informale, anche un po' originale, del contrabbasso così. Pensai a un famoso pezzo di Pat Metheny che è Last Train Home, che proprio c'ha quel contrabbasso che riuscì a far andare il pezzo sui binari e quindi scopiazzando, chiaramente mettendoci del nostro, il collega Dario Mazzucco, abbiamo cercato di farlo volare. Poi Pietro Canali con quelle sue dita magiche rende la cosa sempre più ariosa. Bello questo, hai detto ariosa, bella questa definizione che conclude un discorso ottimo di spiegazione del pezzo. Non è mica facile spiegare i pezzi. Avete no. Un pezzo simile tutt'altro. Che è tutt'altro. Io so che vi metto in difficoltà, ma io voglio capire anche la difficoltà vostra per riuscire a trovare questo. È una cosa meravigliosa secondo me. Il pathos che c'è per fare un pezzo, la voglia di andare avanti, di portarlo alla definizione, alla giusta definizione, una cosa splendida. Una bella cosa. Bene, questo era il primo pezzo, ma ce ne saranno altri pezzi da sentire. Certo. Parliamo della scena italiana, prima di sentire un altro pezzo. Del discorso nostro, del discorso indico. Non vuoi parlarne. Le difficoltà che c'è da suonare pezzi autonomi e non le solite cover di Vasco, di Liga o di Viga e Vasco. No, sicuramente è. Come dire, è un periodo difficile. Difficile, ma non so, adesso non per dire sempre la solita stupidaggine, insomma, però oggettivamente sembra che più che altro addirittura sembra calato un po' di interesse anche della delle persone che dovrebbero invece avere interesse per la musica, per questo tipo di musica di cui stiamo parlando, sembra quasi che c'è, non dico uno svuotamento, però insomma una minor voglia di andare a cercare, di andare a scoprire, incuriosirsi, di fare dei paragoni. Sembra di vedere questo dall'interno, logicamente. Insomma, tu che vivi in Umbria, Umbria aveva, a Perugia aveva una cosa meravigliosa. Dei vecchi locali sono chiusi, ad esempio, ma insomma, quella è una cosa ciclica di tutte le città. Certo, però certo. Insomma, parlando di Bologna, insomma, ho vissuto 15 anni a Bologna. A Bologna, certo. Bologna c'era la scena vecchia, diciamo, vecchia, diciamo, della, no? Di qualche anno fa, era meravigliosa, era incredibile, era un po' il polo, forse più grande anche di Milano, certo. Sicuramente più grande. Sì, di Milano. Sono d'accordo con te. E insomma, sono rimasti grandi vecchi, forse qualcosa, sì, però. Ma ci possono essere anche delle persone di valore. Sicuramente ci saranno, qualcuno ne esce fuori, Dente, le luci della centrale elettrica, insomma, poi possono qualcosa piacere esce. O non piacere, però sì. Mi piace il percorso che fanno. Certo, certo. Cercano, no? Cercano. E il problema è che se non c'è nessuno che poi li ascolta. O capito. Loro magari sono. Ecco, stiamo parlando di persone che magari sono punte di diamante nel loro genere, nel senso che sono riusciti a comunicare, ma tutti quelli che non riescono a comunicare rispetto al passato, io penso che non sia una questione di qualità pura, ma per una questione che l'ambiente è estremamente più selettivo, perché è più piccolo, più stretto. Ho capito. Questa è la mia idea. È una tua idea. E se abbiamo parlato di Bologna, abbiamo parlato dell'Umbria, se c'è questa difficoltà, peccato. Per esempio, parlando dell'Emilia era il centro del mondo musicale italiano, Cuccini, i Nomadi, l'Equipe, sono partiti tutti da là, e poi tanti altri gruppi interessanti. Dente, cioè, tu hai parlato di Dente, musicista straordinario, però sì, però è ancora d'élite, purtroppo è ancora d'élite. La musica di qualità oggi è d'élite. Sì. La musica di qualità non d'élite, insomma, non esiste. Non me ne viene in mente una. Sì, chiaro. Ecco, una volta, cioè, non sono di Bologna, chiaramente, non sono dell'Emilia, non sono dell'Umbria. C'erano quel gruppo del Salento. Salento aveva fatto qualcosa, i Negramaro, all'inizio di carriera, dopo chiaramente sono stati sdoganati a Sanremo un altro par di maniche. Ma dai Negramaro avevano fatto qualcosa di interessante. Anche la scuola romana, soprattutto. Prendi il microfono. Sì, la scuola romana. Sì, hai ragione. Quindi Massimo. C'è questa situazione. Ci siete Massimo voi che cercate di andare avanti, di portare avanti un discorso vostro autonomo. Nonostante le difficoltà, ma ripeto, per me un disco come il vostro è un disco importante per cercare di tirare fuori delle idee nuove, diverse dalle solite. Cioè, incidere un disco è una cosa meravigliosa. Sì. È una vittoria totale contro il sistema. Ma è soltanto l'inizio, per poi portarlo in giro, farlo sentire, perché il disco poi rimane là. Il problema live, sì, sono d'accordo. Quello di incidere un disco è quello di incidere un disco. In questo caso incidere un disco è veramente incidere un disco, perché questo disco è uscito in LP. Cosa che non succedeva da secoli. Anche un LP. Sì, uscito in LP, prodotto prezioso. L'edizione limitata, color trasparente e color oro. Sì. Con il design della nostra amica Barbara Adley. Ha fatto tutto lei come design. Sì, sì. Manager, cucina, tutto. Si occupa un po' dei paeletti quando. Perfetto. Chiaramente. L'LP è una cosa meravigliosa, perché io e Michele, che siamo di vecchie culture dell'LP, il disco, quando aprivi un disco nuovo aveva un sapore diverso, un odore diverso, il vinile. Un suono diverso. Anche lì siamo da capo, come dicevo prima, così si sente meglio. Si sente meglio. Cioè, noi abbiamo fatto il confronto da, diciamo, il master uscito dallo studio di Montreal, CD, confrontato col disco. Con l'LP, l'LP suonava esattamente come noi ci ricordavamo il suono nello studio. E quindi, insomma, no? Che è legato forse... Sicuramente al fatto che, essendo stato inciso in analogico, certo, forse certe scelte erano state fatte in base a un supporto analogico, e quindi forse risuona. Chiaro, chiaramente. Tanto per fare un esempio che tutti conoscono, quando si andava in Italia a comprare un impianto hi-fi, una volta si chiamavano hi-fi, cosa si sentiva? Si sentiva The Dark Side of the Moon in disco. Perché quello era il disco per eccellenza, il suono per eccellenza. Quando sentivano i due vecchi dischi di Beatles, una parte c'era la batteria e una parte c'era la chitarra, era diviso, quello erano i dischi. Chiaramente dopo tutto quello che vogliamo, ma il compact comodo, è utilissimo, però è freddo. Sì, ma è anche un'approssimazione, no, dell'onda sonora, non è un ingegnere? Non partiamo con i tecnicismi noiosi, perché così suoniamo. Esatto. Ok, benissimo. 22:54, dobbiamo suonare ancora, Sì. Cosa sì, suonate? Sì. Va bene Where? Sì. Andiamo con Where. Oh, Where. Benissimo. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Just drop my hands. All I know is you walked out, feet just freeze in place. Often now it gets to this, you just walk away. I watch you filled with wonder, and the silence comes crashing in. Wanted any Sono le 22 e 59 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, benissimo. Ladies and gentlemen, gli Utah. Eccoli qua. Abbiamo sentito questo pezzo meraviglioso. Questo io, mentre andava il pezzo, siamo partiti dal pianoforte. Questa nota ipnotica che ti scava, e poi lentamente, lentamente, con un sacco di stop and go suoi, ti allarghi, allarghi fino ad arrivare all'apoteosi. Bello. Progressive, tra virgolette, ma non è mica niente di male. Anzi, è una cosa positivissima, secondo me. Bello. Decisamente bello. È una veste, però, per un pezzo che è comunque super pop. Però qua l'avete fatta in una veste diversa. Io l'ho sentita in una veste diversa. Adesso abbiamo una veste importante, il giochetto. Alle ore 23, perfette, abbiamo il giochetto. Il giochetto delle ore 23. Facciamo buoni, non i 5 dischi sono troppi. I 3 dischi da portare su un'isola deserta, che non è l'isola dei Fimosi. Ma anche meno. Anche meno. Dipende dall'altezza del disco. Il disco vale 3. Chi comincia a ruota? Il giro. Io. Vai. Ne lascio fuori un altro, così magari poi lo rubo da qualche altro zaino. Una ferrea regola a Rock Wave: non si può copiare. Ah, ho capito. Allora prendo subito quello che vorrebbe prendere Dario, così. Kind of Blue di Miles Davis. Sapevo io. Ok. Allora io continuo su questa linea molto, Dark Side of the Moon, che abbiamo citato poi. Ci fermiamo un secondo. È qui solo perché voglio bene agli altri, non ne dico più. Come poi hai scelto The Dark Side of the Moon, non hai scelto Atar Mav, non hai scelto The Wall? È il disco, ne parlavamo prima fuori onda. È il disco di quei tempi, una svolta epocale, un progetto fantastico. Poi qualcosa che mi ricorda anche la mia giovinezza. Se sei giovane lo stesso. Grazie, lo prendo come un complimento. Rispetto a me, sicuramente. Quindi è la tua giovinezza, praticamente, Dark Side. Poi anche dal punto di vista grafico è una novità assoluta. Ah, un'idea spaventosa di quei due ragazzi, dello studio Hypnosis, due ragazzi alle prime armi, poi sono diventati anche famosissimi, però erano due ragazzi alle prime armi, erano amici loro, praticamente. Certo. Cosa bellissima. A te allora, facciamo questo giro. Cosa un disco me l'hanno già fregato. Devi sostituirlo con un altro. Devo rimpiazzarlo con qualcos'altro. Allora, parto con una cosa che non c'entra assolutamente. Pensavo a Tuck dei Sigur Rós. Ecco, ci fermiamo un secondo, perché alcuni critici hanno citato i Sigur Rós per voi. Forse sono l'influenza. Perché l'Islanda, e non Björk. Björk non c'entra niente, però Björk ha dato l'input a molti gruppi. Mm. Anche i Sigur Rós, secondo me. Io credo che i Sigur Rós siano fondamentalmente uno di quei... background culturali di base a tutti e cinque che abbiamo scoperto di avere nel momento in cui ci siamo incontrati. Cioè, probabilmente tutti e cinque già ascoltavamo quel tipo di disco, comunque avevamo nell'orecchio quel tipo di suono. Ed è venuto fuori. Suono libero al 100%, questo sicuro. Suono molto libero, questa concezione anche degli spazi molto lunghi, del prendersi il tempo giusto per far venire fuori un'immagine musicale, che era quello che dicevamo prima, la questione degli 11 minuti. Se servono e se gli 11 minuti sono riempiti e tenuti in piedi in maniera interessante, comunque non stancano, anzi ce ne possono anche essere di più. Quindi quello è un disco sicuramente che mi porto, porterei sull'isola. Perfetto. Poi? Poi difficilissimo. C'è un disco molto molto molto molto recente, un disco di jazz di Aaron Parks. Che si titola Invisible Cinema, un disco che a me ha colpito parecchio, tantissimo, e un altro disco sempre, vabbè, di un background jazzistico che apparentemente non ha niente a che vedere con quello che suoniamo, ma in realtà si può trovare, si può intersecare in qualche modo, è il Cross Country Tour di Ahmad Jamal, un disco che mi ha influenzato tantissimo per mille aspetti. Bene, Barbara, tocca a te adesso, al centro del microfono, ok? Va bene, sicuramente dovrei portarmi un disco degli Iron and Wine. Bello quello là, molto bello. Sceglierlo sarebbe difficile, forse. Non è conosciutissimo dalle nostre parti, però è molto interessante. Sì, Iron and Wine è un'influenza molto forte. Ok, sono d'accordo con te. Bene, dopo Iron and Wine forse non potrei vivere molto lungo senza Joni Mitchell. Quale blue? Di Joni Mitchell? Blue, per stare, blue. Stare nello stesso colore. Teniamo. Di Kind of Blue. Blue, bellissimo. Blue. Quello è un disco che ha fatto epoca. Se da una parte Tapestry di Carole King ha fatto epoca, da un'altra parte dal punto di vista, perché sono state le due donne che hanno sdoganato anche dal punto di vista commerciale il cantautorato femminile. Joni Mitchell da una parte e Carole King dall'altra. Sì. Decisamente. Sicuramente. E un e terzo? Terzo? Che non è l'ultimo, chiaramente, è solo il terzo per ultimo. Sì. Forse mi porterei OK Computer. Ettore. Come mai OK Computer dei Radiohead e no ultime produzioni, quelle un po' più sperimentali? OK Computer che è stato il disco del grande successo, però non è che sia grande successo perché era facile, però è un disco positivo, fatto bene. Tom York è un genio, in assolutamente un genio. Sì, Tom York è un genio. Ero indecisa fra OK Computer e Rainbows, veramente. Forse, è l'ultimo che ha fatto. Sì, quindi non è che predirego un'epoca sopra un'altra. Diciamo che forse ci sono brani in quel disco che mi hanno colpito particolarmente e che mi sono portata dentro per più a lungo, almeno. Possiamo dire una cosa, che l'ultimo che hanno fatto ha qualche aggancio, secondo me, con OK Computer. Sì, forse c'è sì. Un ritorno, sì. Lo sperimentalismo si era fermato e sono leggermente ritornati indietro, non nel senso negativo, nel senso positivo. Hanno recepito certe cose che forse non avevano sviluppato, e hanno sviluppato in questo disco, anche epocale nel senso innovativo, perché sono stati i primi a lanciare il prodotto via internet. Sì. L'etichetta è arrivata dopo. Ma qualcuno maligno ha detto, ma loro potevano perché si chiamavano Radiohead. È così, no? O quasi. L'ha fatto anche Prince in un giornale inglese, questo, ha venduto 2 milioni di copie legato al giornale. Ah. L'aveva già fatto anche Prince. Però dicono i maligni che è stato un flop commerciale quello di Rainbow. Non è stato un grande successo. Nonostante che... perché qualcuno prendeva già solo una sterlina, hai capito? Sì. Sono maligni. Esatto. Sono maligni. Esatto. Sono maligni. Esatto. Tocca a te. Sì. Beh, posso permettere che la domanda è più difficile che puoi fare. Lo so. Ma che ama la musica che la sente da 25 anni. Ma così è difficile, c'è il pathos, c'è il coinvolgimento. Allora, per risposta ti dirò tre album che... abbastanza sconosciuti dei artisti, insomma, secondari, che però è una, diciamo, nell'ultimo anno gira e rigira, finiscono poi per essere suonati spessissimo, mentre altri magari non più. Non sono classici, però insomma sono album che ho amato nell'ultimo anno e mezzo, forse due, e sono Jay Tillman, che è un fondamentalmente il batterista dei Fleet Foxes. Bello il disco di Fleet Foxes. Sì? Adesso me lo ricordo, sì, questo disco. Però lui è, diciamo, il progetto solista è un cantatore folk, puramente folk, folk roots. Cosa ne pensi dei Fleet Foxes come aspetto folk, il folk urbano di Fleet Foxes? Beh, sicuramente è un po' più lontano da quello che amo del folk, cioè amo molto più una veste più semplice, meno strumenti, più curati magari, cioè più intimo. Fleet Foxes, diciamo, è un lato che amo ascoltare di meno, poi riconosco per carità le qualità fantastiche, però fatto il botto, secondo me. Sì, per carità, cioè, tutte le critiche, gruppo, massimo, sì, delle stelle. Sì, poi è bello, non è? No, è bello, bello, bello, molto, disco è bello. Molto vivo, sì. Esattamente. Però non me lo suono. Chiaramente sì. Quindi Jay Tillman, Minor Works, che è un'opera del 2004. Ok. Poi un semi sconosciuto norvegese si chiama As. Quello non lo conosco. Il disco si chiama omonimo, As. È un tizio che in realtà fa tutto da solo a casa. Chitarra acustica più qualche altro intervento, chitarra classica forse. Ma secondo me sonoricamente è meraviglioso. Dove l'hai pescato questo? Per caso. Riviste, recensioni, così, incuriosisce. Bene. E l'ultimo è José González. José González, primo album. Sono due o tre assolute gemme dentro quell'album che continuo a risentire in continuo, quindi benissimo, me lo porto dietro. Ottimo. Sotto tocca a Ettore. Sì, io Lady in Satin di Billie Holiday. Andiamo sulle cose molto molto alte per soffrire bene sull'isola, sto da solo. Certo, hai ragione. Perché è una cantante che mi piace particolarmente. Poi Wish You Were the Pink Floyd. Come mai Wish? Come mai Wish You Were? Hai scelto Wish You Were, questo ricordo di Syd Barrett, come mai? Perché sei barrettiano o non sei barrettiano? No. Non sei barrettiano? Sono, io sì. Filo il Murriano. Sei filo il Murriano? No. Chiaramente sì. Più Nick, stiamo scherzando. Richard Mason che... Però è che fondamentalmente come OK Computer fa parte di quella gamma di album che sono ascoltabili assolutamente dal primo secondo fino all'ultimo, per sempre, per tutta la vita, mai ti stanchi di ascoltare. E poi perché mi viene la pelle d'oca dal primo fade in della tastiera fino all'ultima nota di tastiera di Wright. Ho capito. Perfetto, perfetto, dal primo all'ultimo. Sì. Assolutamente perfetto. E poi l'avevo pensato, però adesso l'ho dimenticato. È sfuggito. No, sarebbero tantissime cose, non so. Qualcosa di Apple Part, musica. Italiani avete citati nessuno. Ci ho pensato, sì. Però poi ho pensato. No, meglio io. No. Realmente sì, ci sarebbe un. Puoi citarlo. Potrei assolutamente. Che era quello che avevo pensato, effettivamente. Tournée di Paolo Conte. Ah, ecco. Ok, Paolo Conte. Sono contiano. A Bidollo. Sì. È uscito il disco proprio qualche giorno fa. Sì. Quello nuovo. Ho sentito il singolo, interessante. Può spiegare che abbia più successo dell'anteriore di Psiche, che è stato un album un po' difficile. Sì, decisamente difficile. Ma Paolo Conte è un musicista che ha gli alti e bassi, non musicalmente parlando di qualità, gli alti e bassi dal punto di vista delle vendite. Però, cosa che no, capita. Sembra che stia ricercandosi un po'. Sì, è una fetta un po' diversa. Anche le collaborazioni che sta facendo. Sì, esattamente. Anche quello è stato molto amato in Francia e poi è stato amato in Italia come tante altre. Però Conte, molti si ricordano che ha scritto Azzurro di Celentano, ma anche chiaro. Quello ha scritto, ma però cosa vuol dire? Vuol dire assolutamente lui. Ma il caso francese è difficile perché molti artisti sono più famosi in Francia e poi in Italia, non so se perché sono molto più intelligenti noi o perché vogliono prenderci in giro dicendo questo le è piaciuto agli italiani, no, allora ci piace a noi. Sì. Ok, benissimo, adesso cosa, ci riposiamo un momento, abbiamo parlato tanto, facciamo sentire il terzo traccia del disco, la terza canzone che avete scelto, ti ricordi il titolo? Sì, certo, è Spoon River. Perfetto, ok. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Child's play. Christian Domin's tenant. Quarrel arose and I came to law. Quarrel arose and I came to law. Quarrel. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Diretta rockway.alterlista.org, ci potete sentire e vedere. Qualcuno si vuole interessare con noi, SMS 3346 23 20 033. Parliamo allora di questo pezzo, parliamo dell'effetto con la spazzola della locomotiva. Sì. Come hai avuto questa idea? Anche questo è stato un po' il discorso che facevamo prima delle immagini, di cercare di narrare delle immagini con la musica. Un po' era l'idea di quasi di vedere una scena e vederla magari leggendo un libro, passando diversi paesaggi alla tua destra mentre tu sei magari su un treno. Quindi questa è un po' l'idea, quella della locomotiva non, sicuramente è un parallelo sicuramente azzeccato. E in più bisogna anche dare un pochettino, quantomeno citare Howard Billerman, che è stato la persona che ci ha registrato il disco nello studio e anche la persona che nel momento giusto, con discrezione ma comunque con dei suggerimenti molto molto diretti, molto molto incisivi, è riuscito a darci l'idea anche giusta, il filone giusto da seguire per sviluppare il pezzo. La coda del pezzo che abbiamo appena sentito aveva, quantomeno per quel che mi riguarda, una parte ritmica completamente diversa. Abbiamo fatto una take, l'abbiamo registrata, io vedevo Howard, insomma, un po' tutti abbiamo visto che personaggio eccezionale Howard Biller. Ci guardava, sembrava avesse voglia di dirci, ma però forse non aveva ancora il coraggio di farlo. A un certo punto mi ha chiesto, ma Dario, potrebbe essere, cosa ne pensi di fare un ritmo un pochettino diverso? Mi ha canticchiato qualcosa, tra l'altro lui è batterista, quindi insomma, certo, quindi cosa che si sente anche parecchio secondo me dalla registrazione del disco, perché ci sono dei suoni eccezionali della batteria. In questo pezzo mi ha dato questo consiglio, abbiamo fatto la prima take, io e Ettore, è venuta quella che è stata poi registrata. È stato un contributo bellissimo secondo me, interessantissimo, così come tante altre piccole cose che ci ha suggerito durante i giorni di registrazione. Mi diceva Ettore una cosa, microfono spento, a proposito del basso su Marigold Wait. Sì, no, Marigold. Marigold, però. Che cercavamo appunto quel suono di cui ti parlavo prima, che fosse tu molto ripetitivo e che viaggiante. Terminologia un po' inventata. Vabbè, ok. Si capisce lo stesso. E io non riuscivo il contrabbasso a avere il suono che volevo, un suono più rotondo, molto più rotondo. Lui come tre volte mi ha detto, perché non doppi il contrabbasso con un basso elettrico? E io l'ho guardato, guarda, ti rispetto tantissimo, però non mi dire stupidaggi, cioè, una cosa fuori luogo. Peraltro gli ho detto in italiano, lui parla in inglese, quindi cioè, non ci capiamo. Poi alla fine mi ha detto, guarda, provalo. E aveva assolutamente ragione nel farlo, perché finalmente sentì il suono che volevo. Per esempio Among the Shades è un altro caso di questo genere. Sì, la chitarra iniziale volevamo un certo effetto, poi non riuscivamo a trovare, fino a quando per lui Gioelli può come raccontare questa esperienza. No, io veramente pensavo ad altro, cioè pensavo di citare altre cosettine che magari a un primo ascolto possono sembrare fatte in post produzione con il computer, con qualcosa di invece è tutto rigorosamente analogico, è stato fatto tutto a mano, quindi i suoni che sentiti sono fatti da ferro, legno, mani e cose del genere, insomma, quindi anche le spazzole che sono su alcuni brani sono stati fatti, Dario si ricorda perfettamente, con una spazzola d'acciaio sulla pelle del rullante, sullo sgabello, un altro sul cemento direttamente. Cioè non c'è nulla di campionato, ecco, però un po' appoggiandoci a quello che ci viene in mente sul momento, un po' lasciandoci guidare da Howard, insomma è stata un'avventura anche quella, anche perché per me era la prima volta che entravo in uno studio, quindi non avevo assolutamente idea di cosa avrei fatto, come avrei fatto quello che avevo in mente e magari di trovare la soluzione al momento giusto. Poi è stato molto pratico, come diceva lui, ma facciamo così, sì, prova, si può fare, sì, ok, facciamolo. Era un personaggio diretto e capace. Quindi vuol dire che possiamo dire che Awa è riuscito a recepire le cose migliori che avete. Sì. le ha recepite, le ha sistemate. Chiaramente la produzione è totalmente vostra, però totalmente è... nostra, però lui ha dovuto andare anche molto sulla fiducia, ecco. Certo, certo. Cioè, ci ha dato molta fiducia, speriamo di aver ripagato questo, questa, io penso, assolutamente grossa dose di... Sì, abbiamo pagato tutto. Quello pagato sì. Sicuramente. Sì. Quello assolutamente, ma anche nel senso più buono del termine. Sì, sì. Decisamente. Mi sembra ricordare, abbiamo pagato, abbiamo dei debiti con il signor Abila. Non credo proprio. Ti ha pagato tutto quanto. Ok, benissimo. 23, 26, quasi 27. Adesso suoniamo un poco. Che pezzo ci fate sentire ora in questo momento? Il prossimo brano che facciamo si chiama Untwined. Ah, perfetto. Una ballata. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. After all this time, our skins are pink in the sun, and we run to the ones who might save us. Run to the one that you know. Keep you, protect you from harm. Curse the part of me that hurts the heart of you. Tragedies like these fallen leaves, I'd rather get burnt by the breeze. Magazines to know that this wasn't my week, to make changes that cut so deep, that cut so deep. And sure, as the shadow in the midday sun, I will be watching, waiting for a sign. I know that in thank you. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Posso dire una cosa? L'incantevole dondolare della lentezza nel senso positivo del termine. Bellissima. Grazie. Mi ricorda moltissimo, non so se lo conoscete, i Mezzi Star. Ricordate i Mezzi Star? Mi ricordano molto i Mezzi, soprattutto la chitarra tua. Mi ricorda questo suono che ti fa, ti avvolge, ti porta in certi spazi, secondo me. È un bel paragone, grazie. Bellissima, bellissima. Decisamente l'avete fatta in versione acustica, però non dico trasformata, ma avete dato una colorazione leggermente diversa. Ed è giusto che sia così. Il live è sempre diverso. Elettrico è una cosa, acustico pseudo-elettrico come stasera. Ok. Diretta rockway.altavista.org, sono le 23:23:13. Abbiamo ancora tempo per arrivare alla mezzanotte. Ancora, possiamo ancora dondolare musicalmente parlando. Facciamo delle notizie importanti. Il titolo del disco, ve lo ripetiamo. Il disco si chiama Running Through Hoops. L'etichetta? L'etichetta è un'etichetta tedesca che si chiama Arctic Rodeo Recordings. Perfetto, quindi distribuita anche in Germania, chiaramente. In Germania, in tutta Europa con Alive e in Italia con Goodfellas. Dove lo possiamo acquistare il disco? Sicuramente su iTunes, Amazon, se parliamo di internet, se no fisicamente, sinceramente... Nei vostri concerti. I nostri concerti, sì. Domani avete un concerto importante. Sì, domani suoniamo qui a Padova alla Mela di Newton. Che non è molto distante dalla radio, quindi... sì, qui vicino. Dalle ore 21, mi pare, vero? Sì, esattamente. È vero, sì. Domani, visto che il locale è piccolino, non poteva ospitarci tutti e cinque, quindi due rimangono a casa. La sezione ritmica, via. Quindi, però, diciamo che in realtà siamo abituati anche a suonare nella formazione detta acustica, perché spesso, diciamo, i locali non hanno lo spazio necessario per la band completa. E è un concerto un po' diverso, ma anche molto intimo. Per cui avete fatto un grande sacrificio di posizione, siete arrivati in cinque, è una cosa bellissima. Ci tenevamo. Cosa molto positiva. Quindi avete finito questa mini tournée di promozione dell'album, possiamo dire questo? Sì, però. Sì. E poi ci sarà un'altra più tardi. Sì, poi all'inizio di dicembre abbiamo una data a Bologna e un'altra a Roma. E poi se ne riparlerà l'anno nuovo, credo. Poi mi avevi detto al microfono spento, avete fatto una data ieri all'università, mi pare. Sì, all'università americana che c'è a Bologna, la Johns Hopkins University. Un grande riscontro, buon positivo riscontro. Sì, sì, è andato veramente bene, è stata una bella serata. Come questo, chiaramente. Sì. Non siamo in tanti, ma quelli che servono ci siamo praticamente. Sì. Ce ne sono altri a casa, diciamo. Ci sono altri a casa che sentono, che ascoltano, che vedono, quindi cosa molto positiva. Ok, andiamo avanti. Suoniamo ancora, perché è una cosa meravigliosa. Suonare è una cosa meravigliosa. Sì, sono d'accordo. Cosa suoniamo adesso? New Shoots. Ok. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Pull and I'm pushed beneath undertow. Waves pass and sadness floats up to the shore. Take this bag of bones and place it on. Waving boughs till I know I am fit to stand again. Drop me down these poles, I slide down. Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Pietro Canali, tastiere, Ettore Formicori al contrabbasso. Che bel contrabbasso, che bello. Che bel formicori. Che bello il contrabbasso. Con un certo fascino, Dario Mazzucco alla batteria, Pierluigi Anelli alle chitarre e la voce di Barbara Edley. Bello, bello, bellissimo. Questo, cosa posso dire di questo pezzo? Io dico questo. L'inizio è un pezzo di folk inglese, secondo me. Poi arriva all'America, agli Stati Uniti, soprattutto nella tua chitarra finale. Lo sento così. Cioè, parte dal folk inglese e arriva agli Stati Uniti. Purtroppo c'è sempre la voglia di aggiungere qualcosa, di... anche chitarristicamente viene la voglia di esagerare, di mettere qualcosa. Bello, però, bello. E poi usato quel suono un po' particolare. Bisogna stare sempre molto. Cioè, la nostra filosofia è sempre quella di togliere. Sì. Hai 10 idee, ne utilizzi due, e poi quando ne scegli una deve essere quella. Ecco. E anche le note subiscono lo stesso processo. Questo processo, come dice Ettore. Esattamente, è così. Cioè, la linea melodica è semplice, ok, andiamo avanti. Aggiungendo qualcosa che però non dia, tra virgolette, mi si conceda fastidio alla splendida voce di Barbara, ecco. Certo. È qualcosa che gli possa stare bene intorno, addosso, ecco. Qualcuno ha scritto che la voce di Barbara ricorda un po' Eddie Brickell. Sì. Cosa dici? Sinceramente forse è uno dei paragoni nei quali non mi ritrovo. Non ti ritrovi molto. Forse perché non l'ho ascoltata, forse perché diciamo che quando ho letto paragoni con Beth Thornton o anche la Gibbons dei Portishead sono rimasta, oppure Mazzy Star, Hope Sandoval, sì. Questi sono diciamo più anche il timbro, diciamo, più forse morbido, più vicino a te praticamente. Sì, forse sì. Eddie Brick è un po' diversa, sì. Qualcuno, sì. Un critico ha scritto così, io sì. Cito solamente una volta, sì, è vero. Ha scritto Eddie Brick. Sì. Ma questo non vuol dire assolutamente niente, sono solo degli input, dei sì. Riferimenti, sì. Poi quello che importa è quello che fate voi. Siete assolutamente autonomi, siete voi e basta. Sì. Tutto il resto sono dei necessari, perché i critici, io non sono critico. Una piglia sì. È necessario per poter descrivere determinate curve, determinati sentieri. Mm-hmm. Questo è importante. E vorrei ritornare al discorso dell'incisione nello studio di Montreal. Che difficoltà avete avuto? L'impatto, il primo impatto. Lui era la prima volta che incideva in uno studio. Com'è stato il primo impatto? Il primo momento. Com'è stato? Al di là del produttore, al di là del tecnico del suono, al di là di Howard. Ma sicuramente eravamo molto eccitati all'idea di stare là. E cioè, anche l'impatto visivo è bellissimo, perché è un, come dire, un hangar, se ah, un hangar? È un grande spazio pieno di tappeti, di luci soffuse, di strumenti, però è ampio, alto, no? E questo era, come dire, un po' ti avvolge all'inizio, no? Certo. Molto accogliente. Molto, sì. Non era fatto i classici studi, insomma, che conosco io, sono stanzette sì, chiuse. Ho capito. Quello invece era due grandi parti, ma quindi ci è piaciuta questa ariosità che aveva lo studio, quindi secondo me eravamo eccitati e poi siamo messi immediatamente al lavoro. Ricordo sì. Che dopo appena poche ore che eravamo lì avevamo già fatto i suoni, eravamo già pronti per andare. Cosa vuol dire fatto i suoni? Nel senso, eravamo già, no, io lo so, però per chi ascolta, per dire. Eravamo già pronti sui nostri strumenti, avevamo insieme ad Howard Billerman avevamo, come dire, scelto le timbriche che poi sarebbero andate sul disco. Quindi il contrabbasso aveva preso quel suono e il mio piano e la chitarra, dovendo, tutto il resto. Scusami, dimmi. Dovendo anche scegliere gli strumenti a disposizione sul posto, perché non è che in Canada potevamo portarci, certo, tutto, quindi era già, quindi la, al di là di una chitarra acustica e poco altro, insomma, abbiamo trovato, aveva il contrabbasso, sì, no, dovevo solo scegliere tra uno del 700 non tutti sentono, no, che sì, effettivamente fu difficile, perché dovevo scegliere tra un contrabbasso del 700 che avevamo lì o uno del 900. Alla fine uno buonissimo, il zucco si trova in difficoltà di fronte a tutte quelle batterie e piatti. Sì, fu un, e io un i microfoni impatto. Degli anni 50. Ah, i microfoni degli anni 50? Sì. Poi i musicisti sono un po' nerds in queste cose, quindi l'amplificatore, il microfono. È un po' un mondo di balocchi. Il microfono canale, no? È un po' un mondo di balocchi, perché cioè, uno arriva là e ha a disposizione tanti giocattoli. Molte cose che normalmente nell'utilizzo giornaliero. E poi soprattutto sei cosciente che quello che scegli fissa qualcosa, fissa un momento, no? E decide altre cose. Su questo direi che è una cosa presente, quindi, la non digitalità del tutto, quindi su analogico hai poco da scherzare, certo, le piste certo. Sono quelle, devi anche là scegliere se la take ti va bene, la teniamo, ok, resta quella, se la vuoi rifare hai a disposizione una pista, la rifai, però devo cancellare l'altra. Era qualcosa di... Sì, è un out, no? Ma sì, bisogna essere molto decisi e concreti. Il taglio, per esempio, noi abbiamo visto Howard Billerman tagliare con la lametta da barba, il nastro che conteneva il pezzo. Il pezzo, sì, non ci si può tagliare qui, certo, l'ha tagliato, ha fatto questo taglio e cuci proprio manuale. È ripartito il nastro. Credibile. Sul disco non troverete mai dove questo taglio, perché è fatto talmente bene. Però ecco, quello che al momento io dissi, ragazzi, prima di dire ok, facciamo un taglio qui, ricordatevi che poi non c'è il control Z, non si torna indietro con quello è, basta. Di, quello è. Se si taglia, si taglia. Svegliamo il segreto, che pezzo è quello tagliato a metà. Perché sono un pezzo che sta nel disco, sono due take completamente differenti. Mm. E non si nota affatto il cambio, anzi sembra una registrazione fatta proprio sul momento, però sì. non lo diciamo. Antwide, quella che abbiamo suonato prima, bellissimo, numero 4. Però è veramente tengo a dire che è uno dei pochi interventi drastici manuali che ci sono stati, mentre nel digitale si fa e si può fare, si fa molto più con più facilità. Nel nostro caso non è stato qualcosa che non ti è piaciuto, lo puoi rifare sopra anche mille volte, se hai disponibilità, il tempo, sì. Comunque io vorrei menzionare, dimmi, la buona riuscita del disco. Sicuramente anche il clima e l'area di Montreal ha aiutato tantissimo. I colori che vediamo fuori si vedono e si sentono nel disco. Ti dà un appoggio fondamentale. Quel freddo, la gente, le passeggiate fuori, le sigarette fumate. Le birre artigianali. Un'altra ingrediente fondamentale del disco, le birre artigianali del Quebec, che sono buonissime. Benissimo, una cosa che non sapevo, avete detto delle cose interessanti per capire anche come si incide un disco in determinate situazioni. Cioè, incide un disco non con le, sì, con le tecniche, d'accordo, però con questo sistema, con questo modo di fare. È un po' pericoloso, nel senso, è rischioso, dovete essere già pronti, predisposti, tutto predisposto, che non si può sbagliare, si può sbagliare una volta sola e basta. Paganini non ripete in questo caso, però... Sì, però penso che in questo caso sia molto più facile scegliere fra due che fra mille. Ah, sono d'accordo con te, sono d'accordo con certo, te. Non c'è più quell'imbarazzo finale. C'è più qualità, assolutamente. Sei più sintonizzato su quello che vai a fare, perché esatto. non c'è tempo da perdere. Esattamente, esatto. Bene, 23:48, abbiamo ancora circa un quarto d'ora, ma lo dobbiamo utilizzare per cosa? Per suonare, chiaramente, la cosa migliore che possiamo fare. Ok, cosa sentiamo adesso? Sentiamo Wait. Ah, bella, bella Wait. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Placidity, have a seat and listen to the green. Here a while, just stay with me. Remind yourself to breathe. Silly. da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, io ho notato una cosa importante. Tu hai dato l'input a Ettore Formicone. Ettore, hai dato l'input al pezzo, quel contrabbasso. Sì. È una cosa fondamentale. Poi lui ti ha seguito con l'acustica, però il contrabbasso era quello che ha portato, che ha proprio evidenziato, che ha portato avanti il pezzo. Bravo, secondo me. Io l'ho sentito così, forte, teso, giusto, pulsante, com'è giusto che sia. Ma realmente sì, fondamentalmente è che in questo caso la ritmica, io e Dario lavoriamo a stretto contatto, non, né io né lui usciamo fuori dalla cosa unica che è basso e batteria come caposaldo di quello che poi gli strumenti melodici faranno. Tutto qua. Ecco, dobbiamo sottolineare una cosa. Al di là, la melodia è quella che vince sempre. Una melodia di veduta corretta, contrastata forse, ma viene fuori. È la melodia che, bene o male, viene fuori sempre, secondo me, in questo disco. È una cosa molto interessante. Contrastata, come abbiamo detto, nascosta, tirata da una parte e dall'altra, però viene sempre fuori. Sì. Cosa dite? Sì, sì, sì, sì. Sempre una melodia molto esile, leggera. Fondamentalmente, questo è un disco leggero. Sì, leggero, però. Fatto bene, leggero, un leggero di qualità. Fatto benissimo. No, se mi permette. Io lo ribadisco, nostra redazione si è innamorata immediatamente di questo disco, possiamo dirlo, non c'è niente di male, e l'abbiamo cominciato a farci in classifica, Alberto l'ha messo in classifica, perché è giusto che sia così. Ci siamo proprio, la redazione rock, è un disco indie, ma è un disco interessante, ha tanti risvolti. Parte dal folk, si sviluppa nel jazz, c'è qualche addentellato blues nascosto, e c'è la vostra musica. Questo è un complimento, insomma, che penso apprezziamo tutti, perché non averlo fatto rientrare in uno schema certo. È già di per sé un complimento, significa che forse siamo riusciti a mettere dentro tutte le nostre diverse, no? E a fondere insieme tutte le nostre diverse esperienze in un prodotto che poi funziona di per sé stesso, ha una sua vita che non è, come dire, categorizzabile. Sì, esatto, non c'è una categoria. Sembra un po' più difficile. È una categoria. Scusate. Non c'è una categoria vera e propria. Sono le 23:55 e dobbiamo finire, cosa dici? Dobbiamo proprio finire. Come finiamo? La cosa più bella che esista. Finiamo suonando. Io vi ringrazio di essere venuti qua in 5 e non in 3 come domani. In versione grazie a voi della formazione più ampia. È una cosa, è stata per noi una grande soddisfazione. Al prossimo disco, allora, quando farete un prossimo allora, disco? A proposito, però possiamo suonarvi un pezzo nuovo, cioè un pezzo che non è sull'album. Come volete voi, una new entry assoluta. Grazie a Michele Toson, il nostro grande regista, e ci sentiamo la prossima settimana con una nuova band, verrà da Bologna un cantautore, ma adesso ci godiamo l'ultimo pezzo degli Utah. Grazie agli Utah per questa bella serata e buonanotte a tutti. Grazie a voi. Grazie. Rock Wave, l'onda del rock. Trust and happenstance. stripes, to a tiger stinger, to a bee. Radio Rock Wave, l'onda del rock.